gentile biblioteca che ci portano così lunedì e martedì ad aprire la struttura e ad organizzare gli incontri con l'autore. Porto i saluti dell'assessore Tomasini, che è il presidente di questa biblioteca. Stasera non può venire, ma appunto vi ringrazia per la vostra attenzione, vi saluta cordialmente e ringrazia i relatori che intervengono. Questa sera abbiamo con noi appunto il professor Mastrelli, il professor Ciatelli, il dottor Calì e il dottor Hannes Overmeyer. Hanno dato un contributo nel 2006 alla giornata di studi sulle riviste di confine, all'epoca abbiamo avuto anche l'aiuto di Giorgio delle Donne, e è stata una prima occasione per, così, per partire e riflettere sui periodici, sulle riviste, anche perché la biblioteca sin dall'inizio, nel 2002, aveva impostato un lavoro di valorizzazione per quanto riguardava le riviste, i periodici, con la digitalizzazione dei primi, per esempio, quotidiani e periodici in lingua italiana a livello locale. Parlo del Piccolo Posto, della Voce del Sella e della provincia di Bolzano. Ci siamo resi conto che i periodici e i quotidiani sono utili per la ricerca nell'ambito della storia moderna e contemporanea, vengono molto richiesti dagli studiosi, e l'occasione dell'anniversario dei 100 anni, per esempio, dell'archivio per l'Alto Adige è stata così una spinta per organizzare una giornata di studio e coinvolgere anche altri studiosi, perché qui sono con noi presenti una parte di coloro che hanno poi dato un contributo nelle due diverse giornate e i cui contributi trovate anche poi nel libro che abbiamo qui a disposizione anche per voi. Cedo subito la parola a Giovanni Ciapelli, che ha coordinato il lavoro, ha curato poi la pubblicazione. Devo dire che lo ringrazio perché è stato un lavoro anche molto paziente, faticoso. Raccogliere gli scritti, le relazioni non è sempre facile, è un lavoro certosino e anche di pazienza. Comunque ci siamo riusciti e questa è la prima pubblicazione che la Biblioteca Provinciale così promuove e così propone anche in prima linea. Siamo orgogliosi e speriamo di poter continuare con questa nostra iniziativa, anche perché la vocazione sicuramente di una biblioteca che deve occuparsi della realtà locale come la Claudia Augusta può trovare nella storia moderna e contemporanea e anche nella geografia degli aspetti interessanti da approfondire, che possono creare un'identità precisa anche la missione da portare avanti. Vi ringrazio e cedo subito la parola al professor Ciapelli. Grazie. Io ringrazio anzitutto appunto Valeria Trevisan e la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta per avermi invitato a tenere insieme ad altri colleghi la presentazione di questo volume. Di cui è stata ricordata adesso l'origine, appunto il centenario della rivista Archivio per l'Alto Adige, fondata nel 1906, e d'altronde anche i 150 anni della Biblioteca Comunale di Trento, nata nel 1856 e fondatrice a sua volta di una rivista, l'Archivio Trentino, nata nel 1882. In effetti i promotori scientifici dell'iniziativa sono stati proprio i direttori delle due biblioteche, la provinciale Claudia Augusta di Bolzano e la comunale di Trento, Valeria Trevisan e Fabrizio Leonardelli, sollecitati dal professor Carlo Alberto Mastrelli, presidente dell'Istituto per l'Alto Adige, e con il contributo importante di Giorgio delle Donne, che allora era collaboratore delle iniziative culturali della biblioteca. Il convegno era stato ben concepito e fu ben organizzato e io credo che i risultati scientifici anche siano ben riusciti, soltanto appunto rischiava di non vedere uno sbocco di pubblicazione che all'inizio non era stato previsto. Ma poi grazie ancora alla rivista Archivio per l'Alto Adige, che ha deciso di dedicare una parte monografica del proprio volume del 2007 proprio agli atti di questo convegno, e al contributo del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano, che ugualmente mi fa piacere ringraziare, è stato possibile produrre questi atti anche nella forma fisica del volume monografico estratto dall'annata della rivista, perché in effetti si tratta di una parte, di circa la metà del volume 2007 della rivista Archivio per l'Alto Adige, ma è stato stampato in un numero consistente di copie anche come volume autonomo. Il mio ruolo nell'intera vicenda è stato all'epoca quello di relatore insieme agli altri su un argomento particolare di cui poi parlerò, e poi quasi casualmente quello di curatore del volume. Dico casualmente perché io finora mi ero occupato abbastanza di altro. Io ho scritto monografie storiche soprattutto in relazione ad altri periodi cronologicamente, se vogliamo, distanti da questo, come il Rinascimento, per esempio, o il primo Ottocento. Però, per esempio, mi occupo anche di metodologia della ricerca storica e il periodo al cavallo fra il XIX e il XX secolo mi interessa proprio come fucina, come laboratorio di una serie di tendenze ideologiche e culturali che si sviluppano in relazione alla storia della storiografia. E quindi mi sono assunto questo ruolo soprattutto per spirito di servizio, insomma, per garantire la pubblicazione e la circolazione di un insieme di contributi scientifici che probabilmente avrebbero potuto essere anche pubblicati separatamente da ciascuno di noi, come spesso succede, che però aveva senso invece cercare di mantenere uniti, perché in questo modo se ne colgono, se non tutte, almeno molte delle possibili interconnessioni fra temi, persone, aree culturali e territoriali che sono coinvolte in questo soggetto. Non mi risulta che sia disponibile a tutt'oggi un'altra forma di riflessione simile a questa, di questi atti, sulle caratteristiche, le motivazioni, le origini ideali, i modelli di riferimento, gli obiettivi culturali e anche politici legati alla proliferazione delle riviste di confine fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. L'unico altro testo complessivo di questo genere a cui si potrebbe fare riferimento risale però a 25 anni fa e presenta caratteristiche diverse ed è dato dagli atti del convegno organizzato nel 1982 sulle società e reputazioni di storia patria, in cui si ricostruiva soprattutto la storia ottocentesca di queste istituzioni. Come ricordo nell'introduzione al volume, alla quale mi perdonerete se farò riferimento casomai per svilupparla, quegli anni sono anni decisivi in cui, dopo che la Germania aveva completato il suo processo di unificazione nazionale e l'Italia anche aveva completato il proprio con l'annessione dello Stato Pontificio nel 1870, si ridefinivano i rapporti di forza fra le potenze europee, soprattutto la creazione del Reich di Bismarck crea al centro dell'Europa uno Stato forte che rende impossibile una situazione di equilibrio fra le potenze. Inoltre, ecco, in generale l'Ottocento, dalla Restaurazione in poi, è l'epoca, come è stata definita, della nazionalizzazione delle masse, volta a imporre culturalmente il principio della territorialità degli stati, basata sull'omogeneità in senso etnico e nazionale come principale criterio di legittimazione degli stessi. È il periodo in cui tutte le élite europee, in un modo o nell'altro, cercano di convincere le masse, che spesso hanno orizzonti più limitati, localistici, di essere parte di comunità nazionali e ideali più ampie, e a questo scopo si usano una serie di strumenti, dall'educazione e quindi dalle scuole, al servizio militare attraverso la coscrizione obbligatoria e il servizio prestato in zone diverse da quelle di origine, alla gestione, all'invenzione in alcuni casi di una serie di feste nazionali, alla gestione di una serie di ideali pubblici. Però ecco, fino a un certo punto del secolo questo porta alla coltivazione dell'idea di nazione soprattutto in senso aggregativo, dove la nazione è l'ideologia di un gruppo dirigente volto a costruire intorno ad esso una unità statale più ampia, come nel caso dell'unificazione italiana e tedesca. Invece a partire dagli anni 70 a questo possiamo dire si sostituisce un'idea, un uso della stessa idea per legittimare invece uno Stato già esistente in funzione della legittimazione politica e in seguito anche dell'aggressione nei confronti di altri Stati. È l'età in senso più stretto dei nazionalismi, dove si opera anche una sostituzione delle costellazioni ideologiche che affiancano l'idea di nazione. Fino al 1869-70 fino al 1860-70 si può dire che abbia prevalso l'idea di una tradizione di tipo liberale e democratico. Dopo quest'epoca invece prevalgono, anche a causa del mutato quadro politico internazionale, le ideologie del nazionalismo e del bellicismo. In questa situazione, in particolare, le nazioni confinanti come Austria e Italia fanno perno sull'identità culturale o geografica delle regioni politicamente contese per rivendicarne il possesso o difenderne la legittimità di attribuzione. Quindi sono gli anni in cui, al di là delle Alpi, continuano a aver peso le posizioni del pangermanesimo, che era teso a promuovere la riunione sotto un'unica nazione di tutti i territori di lingua tedesca. Questo a sua volta era stato diviso fra la soluzione grande tedesca, che doveva riunire sotto gli Asburgo tutti i paesi di lingua tedesca, e la piccola tedesca, che era volta a unificare gli stati della Prussia. Però poi questa si era ormai realizzata nei fatti con la fondazione del Reich prussiano. Mentre in parallelo si diffondevano in Italia le posizioni irredentiste, tese a riportare sotto la gestione dello Stato unitario italiano le regioni abitate in prevalenza o totalmente da popolazioni di lingua italiana, come il Trentino appunto o la Venezia Giulia. Ora, mentre il tema nazione appunto è stato oggetto negli ultimi anni di un ritorno di interesse storiografico piuttosto importante, e nonostante esistano anche alcuni lavori pionieristici e alcuni testi non solo in italiano ma per esempio anche in lingua tedesca, è stato relativamente trascurato il tema della nazionalizzazione di territori appartenenti a stati plurinazionali o posti in situazioni di confine, e questo sia in generale sia in relazione all'Italia. Le eccezioni principali da questo punto di vista sono stati alcuni lavori di Marina Cattaruzza, che insegna storia contemporanea all'Università di Trieste e che si è occupata appunto di identità contrapposte sull'Adriatico nord-orientale, questo è il titolo di un suo libro, fra il 1850 e il 1950, oppure l'Italia e il confine orientale. Mentre per esempio altri testi di questo tipo, che sono usciti più o meno nel periodo in cui maturava l'organizzazione del nostro convegno, ecco, un altro è L'identità delle Venezie, un convegno veneziano del 2001, confini storici, culturali, linguistici, non molto quindi complessivamente. Mentre i processi di costruzione di precise identità culturali nazionali, funzionali alla contrapposizione e alla legittimazione a posteriori del controllo sul territorio, sono molto interessanti, anche perché consentono di vedere come siano molto simili, perfettamente reciproche del tutto confrontabili le caratteristiche di questi processi. Se questo è il contesto, molte delle riviste nate in questi territori nel periodo fra il 1870 circa e gli anni 20-30 del Novecento rappresentano uno dei principali soggetti che hanno prodotto le diverse e spesso antagoniste identità nazionali e culturali. E queste riviste possono essere viste come un laboratorio che mette in grado di capire la genesi di molte di queste idee. Questo è il periodo in cui in questi territori vengono fondate molte associazioni, cioè non solo associazioni nazionaliste di diversa ispirazione, tutte d'altronde ufficialmente culturali, cioè volte alla diffusione della propria cultura nazionale attraverso l'istituzione di scuole, di biblioteche, oppure anche di cure d'anime nella propria lingua, nei territori dell'altra parte, per così dire. Ma anche appunto tutta una serie di riviste nate con l'intenzione più o meno dichiarata di dimostrare, in base ad un'inoppugnabile documentazione storica, linguistica, archeologica e, come vedremo, anche geografica, l'appartenenza di questo o quel territorio all'una o all'altra comunità nazionale. Quindi è in questo periodo che vengono fondate associazioni come la Pro Patria, che è del 1885, che poi diventa nel 90 Lega Nazionale, e a livello nazionale poi con analoghe motivazioni la Dante Alighieri dell'89, la Trento e Trieste del 1902, mentre appartengono alla parte tedesca le altrettanto note Deutscher Schulverein, la Südmark, la Tiroler Volksbund degli stessi anni. A fianco di questo, per fare solo un esempio riguardante questo territorio, fra il 1880 e il 1915 vengono fondate solo in Trentino 7-8 riviste, nelle quali l'aspetto di sottolineatura dell'identità culturale nazionale, più o meno importante a seconda dei casi, è sempre presente. Sono Archivio Trentino, Tridentum, Pro Cultura, San Marco, Archivio per l'Alto Adige, appunto, La Voce Trentina, senza contare l'Archivio Storico per Trieste e l'Istria del Trentino, perché quello, nonostante il nome Trentino, nasce a Trieste. Ecco, fra i temi emergenti, oltre a quelli del diverso o speculare modo di concepire la memoria e l'identità nazionale, si colloca anche il ruolo svolto dalla scienza geografica, come si sta definendo, nella legittimazione delle reciproche rivendicazioni, da cui deriva il peso non indifferente delle nozioni e teorie geografiche nella veicolazione delle idee irredentiste. Per esempio è importante l'influenza del roveretano Bartolomeo Malfatti, geografo e docente di geografia all'Università di Firenze e in generale di tutta la teoria dello spartiacque alpino come confine naturale e politico della nazione sull'elaborazione politica, fra gli altri in quel periodo, di Ettore Tolomei, che fra l'altro a Firenze di Malfatti fu allievo. I saggi che compongono il volume quindi vertono tutti su questi temi e portano ciascuno un contributo specifico alla ricostruzione del quadro più generale. Quindi Giorgio delle Donne nel volume ricostruisce i termini della questione altoatesina, soprattutto fra il 1890 e l'avvento del fascismo, concentrandosi appunto sulla funzione dell'irredentismo, sulla funzione attribuita da Ettore Tolomei all'archivio per l'Alto Adige e soprattutto sull'immediato periodo postbellico, in cui la regione di Bolzano fu retta prima da un governatorato militare e poi dal commissariato generale civile. Quindi, per esempio, nel suo saggio si sottolinea l'azione svolta in Alto Adige prima dall'ufficio propaganda, che diffuse fra l'altro in 800 copie un interessante opuscolo dal titolo Perché l'Alto Adige è nostro, riprodotto in appendice del saggio, e poi dal commissariato generale civile di Luigi Credaro, che era stato docente universitario di pedagogia, era stato anche ministro alla pubblica istruzione tra il 1910 e il 1914, e che in quel periodo, in questa funzione, per esempio, promosse la traduzione italiana di un'opera tedesca di Grabmaier, che rivendicava l'autodecisione dei sudtirolesi, allo scopo di promuovere contestualmente la pubblicazione di un testo italiano volto alla confutazione di quelle tesi. Delle riviste italiane a livello nazionale nello stesso periodo si occupa nel volume uno specialista come Umberto Carpi, che in passato si è occupato con grande competenza soprattutto della Voce, la rivista fiorentina nata all'inizio del Novecento, e che ha un ruolo anche nello sviluppo di queste riviste. Carpi, per esempio, vede proprio nella Voce, più che in altre riviste dello stesso periodo, il modello di riferimento a cui guardarono probabilmente tutti i grandi e piccoli progetti culturali che emersero all'inizio del Novecento, perché furono vociani molti degli intellettuali attivi in quella stagione, e furono costruite a imitazione della Voce di Firenze molte riviste in tutta Italia, fra cui anche la Voce Trentina, una rivista che fa parte appunto di quelle che sono che nascono in questo stesso periodo. Anzi, vorrei approfittare di questa occasione per dire che la prossima settimana a Trento si svolgerà un'iniziativa in un'occasione del centenario della Voce di Firenze, proprio perché la Voce nasce nel dicembre 1908, quindi siamo un po' in ritardo, ma siamo ancora più o meno dalle parti dei 100 anni, in cui si cercherà di dar conto, per esempio, dei contatti fra i fondatori della rivista e l'ambiente trentino. La Voce non ebbe, in termini quantitativi, una forte partecipazione di trentini fra i suoi collaboratori, ma da una parte, per esempio, dedicò a questi territori una parte non piccola di attenzione, occupandosi spesso delle terre irredente fra il 1908 e il 1913, e in questo senso svolse un forte ruolo la figura di Scipio Slataper, redattore fisso della rivista. Dall'altra, per esempio, pubblicò nel 1910 nella collana di libri che fu una diramazione della rivista, I Quaderni della Voce, un testo che rimane insieme interessante e importante per capire la situazione e il clima dell'epoca, e cioè Il Trentino, scritto da un socialista, scritto dal giovane, allora socialista di tendenze estremiste, Benito Mussolini, che è un testo che insomma rimane, nonostante tutto, rimane interessante a distanza di tempo nella definizione di quel periodo. Ecco, inoltre, appunto, attraverso i contatti con alcuni intellettuali locali, come per esempio il doveritano Alfredo De Gasperi, il direttore della Voce Prezzolini stimolò la produzione di una, appunto, delle riviste nate in quel periodo, diretta imitazione fin nel nome del progetto vociano, e cioè La Voce Trentina, che è una rivista che vissuta per un periodo relativamente breve, un anno e 12 numeri, e che poi si sciolse per difficoltà finanziarie e anche per le divisioni interne al gruppo eterogeneo che l'aveva dato vita. Carlo Alberto Mastrelli, che parlerà dopo di me, quindi sul quale non ho bisogno di soffermarmi particolarmente, ha ricostruito nel suo contributo la genesi della rivista di cui nel 2006 ricorreva il centenario, l'archivio per l'Alto Adige, quindi dalle affermazioni programmatiche di Ettore Tolomei nel primo numero della rivista alla scelta dei termini costitutivi del titolo, dove per esempio emergono i termini archivio nello stile di molti dei periodici culturali dell'epoca a carattere storico, con l'intenzione di suggerire una raccolta di documenti, no? Mentre il termine Alto Adige fu utilizzato perché appunto era il termine utilizzato da Mazzini per designare la regione fino dagli anni 60 dell'Ottocento, ma era già stato usato anche dall'amministrazione napoleonica per definire il relativo dipartimento nel periodo del regno italico all'inizio dell'Ottocento. Anche Hannes Obermann parlerà dopo di me e quindi ugualmente questo mi esime da un commento più diffuso sul suo contributo, che era d'altronde dedicato a una rivista fortemente legata a questo posto, e cioè la rivista sudtirolese Der Schlern, fondata nel 1920 e che prende il nome dal monte omonimo. Una rivista pubblicata fra il 1920 e il 1938, quando fu chiusa dalle autorità italiane fasciste, che vedevano una forma di resistenza della cultura germanica che in quel momento il fascismo tentava di affossare e che ricomparve nel 1946 per durare poi fino a oggi. Quindi rivista portatrice dei valori culturali del gruppo di etnia tedesca, con caratteristiche però diverse d'altronde da quelle più collettive anche nella realizzazione rispetto a quelle dell'archivio per l'Alto Adige, che invece dipese come taglio molto dalla figura individuale di Tolomei. E invece probabilmente più vicina, questo sottolinea Obermann, ma poi eventualmente lo approfondirà, agli studi trentini di scienze storiche, che sono una rivista con caratteristiche simili, che per l'appunto nasce in parallelo esattamente nello stesso anno, nel 1920, dello Schlern. Per un volume che si intitola Riviste di confine, l'oggetto non poteva essere limitato al confine trentino. Era necessario volgere, anzi, scusate, uno sguardo comparativo anche a quanto si svolgeva contemporaneamente appunto sul fronte orientale. Da qui il coinvolgimento all'epoca del convegno e poi nel volume di un geografo, Francesco Micelli, e di uno storico, Fulvio Salimbeni, che si sono occupati per le rispettive competenze dell'area giuliana. Il contributo di Micelli unisce in sé l'attenzione per l'area friulana e giuliana e quella per il contributo della geografia all'elaborazione delle idee relative ai confini italiani, anche come minimo per la fortissima concentrazione di geografi nella regione giuliana. Anche se poi questi geografi operarono altrove, cito soltanto Giovanni Marinelli e suo figlio Olinto Marinelli e poi Renato Biasutti, tutti e tre in periodi diversi poi docenti di geografia a Firenze. Fu Giovanni Marinelli a riprendere autorevolmente intorno al 1895 il concetto di confine naturale, cioè la linea di displuvio dell'arco alpino, come miglior confine anche politico per l'Italia a causa delle possibilità che offriva dal punto di vista della difesa del paese, anche se allora questo concetto era disgiunto da intenzioni di tipo aggressivo nei confronti dell'Austria. Questo concetto fu lasciato in eredità ai suoi allievi, che quindi lo coltivarono in quel ventennio cruciale che precede l'entrata in guerra dell'Italia, fornendo argomenti anche al gruppo di coloro che se ne servirono dal punto di vista politico per sostenere la necessità di una guerra che portasse il confine fino a quella linea. E un esempio di ciò è naturalmente dato dalle posizioni dello stesso Tolomei, già influenzato dalle teorie del geografo trentino Bartolomeo Malfatti, e che, come è noto, su questa linea cercò di spingere anche Cesare Battisti, che però non pare lo abbia seguito. Il concetto poi fu elaborato da Giovanni Marinelli, fu ripreso anche da suo figlio Olinto nel 1915, sia pure con prudenza. Ecco, la cosa interessante messa in luce da Micelli nel suo saggio è che a guerra finita, e addirittura nel 1923, quando in teoria sarebbe stato ancora più facile e politicamente anche più gradito sostenere che la linea dello spartiacque era un confine naturale, lo stesso Linto invece approderà a una clamorosa, come la definisce Micelli, conversione politica, riconoscendo che in natura mancano confini precisi e che per questo motivo il concetto di confine naturale avrebbe dovuto essere bandito anche dal linguaggio patriottico. Quindi, per esempio, la complessità del punto di vista a cui giunge il giovane Marinelli, unita anche all'atteggiamento variegato della scuola geografica giuliana di fronte al fascismo, perché per esempio non tutti aderirono, spinge l'autore a considerare almeno insufficiente il giudizio secondo il quale tutti i geografi dell'epoca avrebbero assunto posizioni di esasperato nazionalismo. Fulvio Salimbeni si occupa invece delle riviste giuliane, nate anch'esse numerose nel periodo considerato. Anche in questo caso il catalizzatore principale dell'attività di questo genere è la stipulazione della triplice alleanza fra Germania, Austria, Ungheria e Italia nel 1882, che nelle nostre regioni toglieva nell'immediato ai fautori della riunione nazionale la speranza di una guerra redentrice, perché non si poteva fare la guerra ai paesi con cui si era alleati, e li obbligava appunto a seguire altre strade volte a esaltare la comunanza con l'Italia, soprattutto sul piano culturale. In questo arco di tempo, come abbiamo visto per il Trentino, nascono in questa regione ben 8 riviste, a partire appunto dal militante archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino, fondato nel 1881 da Salomone Morpurgo e Albino Zenatti, passando, cito solo i nomi, attraverso gli atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, già i nomi sono significativi, la più divulgativa Pagina Istriane, riviste studentesche come il Palvese, sulle quali mossero i primi passi Scipio Slataper e altri triestini, che poi, recatisi a Firenze, collaboreranno anch'essi alla voce di Prezzolini, le memorie storiche Foro Giuliesi, il bollettino della Società Filologica Friulana, gli studi goriziani, fondati nel 1923 a Gorizia dal trentino Carlo Battisti, che poi a partire dal 1925 sarà uno dei principali animatori dell'archivio per l'Alto Adige. Quindi ci sono anche queste singolari convergenze, no? Sulla base dell'irredentismo anche fra regioni diverse, e per finire con la Porta Orientale, nata nel 1931, su cui scrisse nell'ultimo periodo della sua attività, ormai su posizioni decisamente nazionaliste, anche qui il trentino è docente di letteratura italiana all'Università di Trieste, Ferdinando Pasini, che aveva cominciato la sua parabola a Trento come socialista e amico di Cesare Battisti, e che strada facendo aveva egli stesso collaborato alla voce di Prezzolini a Firenze. Quindi vedete come ci siano tutta una serie di fili che si riannodano in situazioni diverse. Tra l'altro Pasini aveva scritto anche nei Quaderni della Voce, anche lui, un volumetto dedicato all'Università Italiana a Trieste, che era un tema molto sentito perché era l'esigenza di costruire un'università di lingua italiana per tutti gli italiani dei territori appartenenti all'impero. Il contributo di Fabrizio Leonardelli, direttore della Biblioteca Comunale di Trento, è stato quello di ricordare i molteplici legami con la sua biblioteca di quella fioritura di riviste trentine a cui abbiamo fatto riferimento sopra, proprio perché molto spesso promotori di queste riviste furono o direttori della Comunale di Trento, come alla lontana Tommaso Gall, ma per proseguire con Ambrosi, Oberziner, Cesarini Sforza, ma poi anche molti collaboratori della biblioteca, appunto, o direttori o collaboratori della biblioteca furono fra i promotori di queste riviste, a partire da Gar, il quale aveva collaborato da giovane a Firenze alla prima rivista storica, specificamente storica italiana, l'Archivio Storico Italiano, che era nato nel 1841 e che era stato il primo a proporre nel 1851 una rivista di storia trentina che all'Archivio Storico Italiano si ispirava fin nel nome, avrebbe dovuto essere l'Archivio Storico Trentino, che non fu fondato allora e fu probabilmente poi l'Archivio Trentino fondato 30 anni più tardi nel 1881 dalla Biblioteca Comunale di Trento, a cui ne seguirono poi molte altre. Le molte altre sono oggetto specifico del contributo di Maria Garbari, che passa in rassegna le riviste trentine del periodo che immediatamente precede e segue la Grande Guerra, per delinearne gli aspetti metodologici e i motivi ispiratori, e sono le riviste che ho nominato prima. Ecco, Garbari sottolinea che il fatto di insistere sulla ricerca delle fonti della storia del territorio negli archivi e anche un aspetto ideologico meno marcato resero queste riviste più permeabili fra loro, per cui a Trento un po' tutti gli intellettuali attivi collaborarono a tutte, cioè non ci furono gruppi particolarmente divisi, se non forse per quelle di ispirazione più confessionale. Sì. Personalmente io in quel convegno e quindi in questo volume mi sono occupato di un aspetto che mi era saltato agli occhi studiando quel periodo e quei fatti, cioè l'esistenza di stretti contatti con la Toscana di molti intellettuali trentini vissuti fra inizio 800 e inizio 900, che finora erano stati relativamente poco indagati. Qui tutto nasce appunto con le figure dei trentini Tommaso Gar e Giuseppe Canestrini, che sono tutti e due collaboratori dell'Archivio Storico Italiano che menzionavo prima, negli anni 40-50 dell'Ottocento, e Canestrini poi diventerà direttore della nuovamente costituita Biblioteca Nazionale di Firenze. Gar e Canestrini sono poi il tramite di altri rapporti di trentini con l'ambiente culturale fiorentino, perché introducono Chilovi, che poi diventerà a sua volta direttore della Biblioteca Marucelliana e poi direttore della Nazionale, e Gari introduce anche Malfatti. E qui fra l'altro, fra Gar, Canestrini e Chilovi, noi ritorna anche un ruolo emergente dei bibliotecari e direttori di biblioteca nella produzione culturale di questo periodo. Bartolomeo Malfatti, già menzionato, diventerà professore dell'Ateneo Fiorentino nel 1878, e a questo punto, ecco, nei rapporti culturali fra Trentino e Toscana, fra Trentino e Firenze, entra in gioco un istituto di formazione superiore che ha ugualmente un'influenza importante in questi fatti, cioè l'Istituto di Studi Superiori, l'antenato in qualche modo dell'Università di Firenze, nella sua sezione di filosofia e filologia, che poi è quella che diventerà la facoltà di lettere e filosofia, alla quale furono iscritti in periodi diversi fra il 1875 e il 1925 una settantina di trentini. È una cosa che non era mai stata rilevata con questa precisione. Fra questi appunto Federico Halber, Lamberto Cesarini Sforza, Tullio Sartori Montecroce, Cesare Battisti, Ferdinando Pasini, Ettore Tolomei stesso, Ernesto Sestan, ecco. Quindi una situazione che unita, situazione di Firenze, appunto, era una situazione che aveva autonome capacità di attrazione come l'arte e la lingua, e poteva contare appunto anche sulla presenza di una serie di trentini già in posizioni di rilievo come docenti universitari o come emigrati, e avrebbe contribuito a fare tutto questo di Firenze un polo non secondario per l'istruzione universitaria dei Trentini già nel periodo 1870-1920. E questo fatto, a cui poi si unisce a partire dal 1924 la presenza del Carlo Battisti, che abbiamo menzionato prima come parte molto attiva nella gestione dell'archivio per l'Alto Adige. Dopo il 25, docente dell'Ateneo Fiorentino dal 24, contribuisce a spiegare anche il trasferimento della sede dell'archivio per l'Alto Adige nel capoluogo toscano a partire dal secondo dopoguerra. Ecco, infine, il saggio di Michele Nicoletti ricostruisce nascita, attività, caratteristiche delle riviste sorte nell'ambito della specifica matrice cattolica fra 800 e 900, una tradizione culturale di grande importanza nel contesto trentino, perché appunto in contemporanea con la nascita della FUCI, della Federazione Universitaria Cattolica, primo nucleo del progetto di costruzione di quella che solo più tardi si chiamerà Democrazia Cristiana, nasce a Vienna l'Associazione Universitaria Cattolica Trentina, che dà subito vita, anche questa, nell'anno 1900, alla rivista Tridentina, che è un periodico di interesse locale che però si allarga a interessi culturali più generali con la direzione del padre Chiocchetti. Le linee dell'intervento culturale cattolico erano già tracciate nel 1902 dal presidente dell'Associazione Universitaria Cattolica Alcide De Gasperi, cioè la contrapposizione a liberali e socialisti, la produzione di una cultura più specificamente cattolica, la sottolineatura dell'identità insieme italiana e democratica del movimento. E a partire dal 1910 queste linee si espressero anche attraverso la rivista San Vigilio, che insieme alla rivista Tridentina di Chiocchetti dedicò molto spazio a temi filosofici e teologici, specialmente in risposta ai problemi posti dal modernismo di Buonaiuti. Quindi ecco il quadro, concludo, presentato dai saggi che compongono questo volume, è quanto mai ampio e variegato. I risultati raggiunti dalle singole ricerche costituiscono, credo, una base di partenza importante per la ricostruzione del tessuto culturale di questa regione in un periodo come l'età dei nazionalismi. A questo punto la parola è ai lettori. Io spero che la varietà dei temi e dei punti di vista rappresenti uno spunto per altri per continuare e approfondire i temi e le ricerche. Soprattutto mi parrebbe importante insistere in alcune direzioni, in questo volume ancora accennate perché forse sono state finora considerate un po' più delicate, ma io credo che i tempi siano maturi per prenderle in considerazione con un certo distacco. Quindi, per esempio, le caratteristiche dell'irredentismo trentino nelle loro varie sfaccettature, poste a confronto con un'analisi più precisa delle ideologie nazionaliste veicolate dalle associazioni di lingua tedesca, oppure il tema della lotta culturale fra etnie, certamente prima della Grande Guerra, ma anche durante il Ventennio, non solo nell'area trentina, ma anche nell'area sudtirolese. E infine, e per quest'ultimo periodo, la misura e le caratteristiche del coinvolgimento dei locali intellettuali italiani di fede nazionalista quando ci sia stato con il fascismo. In questo senso è stata studiata più specificamente la figura di Ettore Tolomei, che però non è stato il solo a gestire la politica culturale in quest'area dopo la prima guerra mondiale. Ecco, l'esistenza del volume, per il quale abbiamo cercato anche di fornire un indice dei nomi che consentisse di stabilire. Che consentisse non solo la consultazione, ma di stabilire tutti quei collegamenti che a volte è difficile fare, altrimenti fra persone i cui rapporti sono a volte addirittura insospettati, no? Dovrebbe alla fine dar conto dei modi e delle forme della comunicazione culturale in un'epoca cruciale come questi decenni a cavallo fra i due secoli scorsi. Grazie. Avrete veduto che io ho due volumi, ma non è lo stesso volume di quello che ha parlato, di cui ha parlato adesso Ciappelli. Sono due convegni. Questo perché quando scoccava l'anno del centenario al quale mai pensavo che sarei un giorno arrivato e che avrei in qualche modo dovuto prendermi la responsabilità di farne diciamo una celebrazione, un punto di riferimento, un'attenzione particolare, mi sono domandato cosa si fa per festeggiare i 100 anni dell'Archivio per l'Alto Adige. Non sono pochi, non sono molte le riviste in Italia che hanno vissuto per 100 anni in situazioni spesso anche tragiche e drammatiche. Ebbene, ho detto, nessuna celebrazione, nessuna celebrazione. Se una rivista è viva e di questi tempi potrebbe essere anche sentita come poco viva, voglio vedere cosa succede se questo Istituto per l'Alto Adige, che da troppi anni vive così, quasi isolato oramai a Firenze, ha un suo punto di riferimento nel territorio dal quale ha sempre tratto il suo nutrimento, soprattutto con quale scopo? Lo scopo è chiaro, quello del Tolomei da principio, per far conoscere il Trentino Alto Adige agli italiani, i quali il più delle volte non ne sono a conoscenza perché la maggior parte degli scritti e degli studi dedicati al Trentino e all'Alto Adige sono in lingua straniera. Quindi doveva essere un modo, un istituto che voleva porgersi agli italiani per far conoscere la realtà, comunque essa fosse, del Trentino e dell'Alto Adige. E allora so che quasi tutti, desiderando, compiendo i 25 anni, i 50 anni e i 100 anni, sono tentati dalla voglia di fare una gran festa e di torte e candeline e avere. Ecco, io ho detto no, cerchiamo di vedere cosa dell'Istituto, dell'Archivio per l'Alto Adige vive o può essere presente nel territorio. E quindi, siccome la realtà che studia l'Archivio per l'Alto Adige, questa realtà che prende il Trentino e l'Alto Adige, secondo uno schema geografico e anche storico, direi, voluto e preso come primo esempio, come prima mossa dal Tolomei, ebbene, ho veduto che ci potevano essere soprattutto questi riferimenti. Uno alla realtà della provincia di Bolzano che ha i suoi problemi, una alla realtà della provincia di Trento che ha i suoi problemi e che li vive però insieme in questa regione così controversa del Trentino Alto Adige, dove regione poi vuol dire due province e dove nessuna delle due province vuol dire provincia ma vuol dire regione, insomma è una cosa che fa comodo a qualcuno ma non è certo un modo chiaro per gestire le cose di questa realtà. E l'altra è la presenza di una ladinità che non è esclusiva della provincia di Trento e di Bolzano ma che si ritrova anche nella provincia di Belluno, tanto che l'anno scorso poi in modo particolare è emersa anche da un punto di vista sociale e politico una presenza dei comuni di lingua ladina dell'area bellunese. E allora tenendo conto del fatto che pur avendo il Tolomei una visione, come diceva anche Ciappelli, soprattutto confortata da un disegno geografico ben preciso, non consiste solo nel corso della valle dell'Adige, ma per quanto riguarda il ladino tocca anche la parte della zona del bellunese e quindi la zona del bacino del Piave. E allora Trento e Bolzano sono stati vissuti nel desiderio di un approfondimento fatto in queste due città con il tema le riviste di confine, perché è qui il problema maggiormente vissuto di un confine che direi che più che politico direi che sarebbe l'ora che si capisse quasi soltanto mentale e della mente ristretta di troppe persone. L'altro invece era dedicato a una manifestazione di maggiore attenzione al fatto che rappresenta veramente un sostrato unitario di questi territori che include però anche Belluno, per cui abbiamo voluto cominciare i nostri incontri a Borca di Cadore, dove si trova un istituto ladino e il titolo è stato 100 anni di cultura alpina nell'archivio per l'Alto Adige, perché questa cultura alpina nell'Alto Adige è stata vissuta nella interezza del concetto di ladino, non nella separatezza di un concetto di ladinità che debba essere considerata soltanto del ladino tedesco. Perché questa adesso, negli ultimi tempi, la bella trovata che non si può essere considerati ladini se non siamo stati nell'impero austro-ungarico. Sono cose che non possono essere accettate. Dunque questo primo volume indica la presenza dell'Istituto Alto Adige in territorio ladino nel più diseredato di tutti, perché a Borca di Cadore non tutti i ladini si riconoscono come ladini. L'altro è le riviste di confine, dove la parola confine primeggia proprio per i casi fatti qui a Trento e a Bolzano. Il problema era quale luogo scegliere per vedere quale cultura poteva essere vissuta in loco in consonanza con quello che perlomeno io ritengo che debba essere l'attività di un istituto dell'Alto Adige che sta a Firenze, per le ragioni storiche e culturali che sono alla base del nostro lavoro. Quello di escludere via via tutte le sedi di maggiore rappresentatività, perché sono sedi della rappresentatività o della provincia o del comune o di quell'associazione o di quell'altra. E allora, come classicista, ho pensato bisogna assolutamente che si viva finalmente l'esperienza vitale della cultura che nel periodo alessandrino, in periodo greco, si faceva nelle biblioteche. Allora, i 150 anni della biblioteca di Trento, che è una bellissima biblioteca comunale, è una bellissima biblioteca comunale, e la nuova biblioteca provinciale di Belluno, questa Claudia Augusta, sono per me i luoghi dove si dovrebbero fare, ma con sorpresa ho visto che si fanno di già e anche, gli incontri più saggi, più importanti, perché non si fanno degli incontri in cui la gente ascolta degli oratori, si fanno degli incontri con delle persone le quali, più che a sentire gli oratori quando parlano, sono abituati a leggere gli autori nei libri, autori vivi o defunti, non importa, ma abituati a una meditazione sul lavoro che si fa e non ai pronunciamenti e non alle esecrazioni e non alle esaltazioni. Sono luoghi dove si dovrebbe riflettere su quello che si sta facendo. Si sta facendo nel bene e si sta facendo nel male. Ogni storia ha i suoi inconvenienti e ha le sue avventure le sue disavventure. Noi viviamo adesso questo periodo di tempo in una dimensione dove si corre il rischio di perdere il senso del presente, del presente culturale, del presente vitale, non della vita che uno svolge, perché c'è la vita personale di ciascuno e ciascuno la vive profondamente questa sua vita, ma la giustificazione del proprio esistere socialmente in questi contesti il più delle volte non è avvertito nella maniera principale. Ed ecco perciò il motivo per il quale, più che fare celebrazioni a Firenze, più che fare celebrazioni in teatri, abbiamo preferito che si lavorasse insieme ai lavoratori che dal nostro punto di vista sembrava che fossero i più adatti per fare questa meditazione celebrativa, questo recupero di una memoria, il ripercorrere questi 100 anni. E avete sentito appunto da Ciappelli quante cose interessanti si possono ritrovare, e la soddisfazione adesso è di trovarmi di fronte nell'archivio, che è una raccolta dove non si fa la raccolta differenziata, quello che si fa con la spazzatura, si fa la raccolta di tutto il meglio in quel settore o in quell'altro, che di volta in volta ci viene presentato dai colleghi che lavorano in questo particolare periodo di tempo. E ne sono venuti fuori questi 2 volumetti, e sono gratissimo a Ciappelli, che ha avuto una pazienza infinita, perché voi non potete immaginare come sia stato sorprendente vedere che quello che aveva parlato e sembrava un libro stampato non aveva scritto un bel niente, e per cui ci ha fatto ritardare un anno, perché come aveva parlato senza scrivere niente, così pensava che si dovesse noi scrivere quello che lui aveva detto. È stata una fatica diabolica. Per fortuna che parlava come un libro stampato, però ci ha perso tanto di quel fegato sopra che ci si è persino ammalato. Devo dire però che involontariamente, perlomeno da principio, è capitato un fatto veramente interessante, al quale ha accennato modestamente il Ciappelli, ma che io considero significativo, cioè che questo, che era un incontro tra Trento e Bolzano, queste due città, intanto è la dimostrazione che Trento e Bolzano, se vogliono, possono lavorare insieme, perché a me questa separatezza tra queste due città proprio non mi va. A me non mi va, per esempio, che Trento distrugga metà del palazzo di giustizia austriaco e Bolzano non ne sappia nulla, faccia finta di non saperlo, dove c'è una maggioranza tedesca, perché le convenienze sono quelle. Non sono cose che vedute da Firenze fanno tanto bene all'immagine che uno ha di queste belle, stupende cose, perché se è esaltante la storia d'Italia, è anche esaltante la storia dell'Austria. Bisogna essere degli europei, finalmente, no? Ecco, E allora, oltre a questo fatto che le due biblioteche, Trento e Bolzano, sono unificate in questo lavoro, ma c'è anche un'unificazione, questo indice fatto da Ciappelli, per cui noi non abbiamo degli atti in cui ogni autore, ogni relatore rimane separato in se stesso. Chi vuole, dall'indice non solo del volume, ma dei nomi che sono riportati nell'indice, ha di questo convegno separato, fatto di persone che nemmeno si conoscevano, le ha unificate. Ed è, credo, forse l'unico, uno dei pochissimi casi in cui si ha un indice generale degli atti di un convegno. Non è poco. Mi sembra che questi obiettivi, che mi sembra che possono essere i più interessanti in un mondo che è soltanto ripetitivo di se stesso, siano un punto di soddisfazione non tanto per me, che io sono contento di dove sto, ma di vedere che le cose vengono fatte bene quando si vogliono e si possono far bene. Grazie. Innanzitutto io vorrei ringraziare gli organizzatori di avermi allora invitato, no? Di aver potuto presentare un specifico caso, no? Che era la rivista der Schlern, che forse in questo contesto del volume è un po' esotico, ma ci sta molto bene a mio avviso, e avendolo studiato poi per me è stata un'occasione bella per approfondire taluni aspetti che a mio avviso, o almeno per me, erano poco noti, e ho avuto modo di vedere o di ripercorrere, diciamo, alcune riflessioni mie, ma anche della storiografia esistente che c'è, no? Il bello è che su queste tematiche ormai non parliamo più come potevamo parlare magari negli anni 70 o 80, ma nel frattempo c'è una bibliografia fortissima su questi temi, sia di produzione di identità regionali ma anche nazionali, e che unisce poi un lavoro come questo o dei saggi, delle indagini che qui sono proposte, con ricerche magari in tutte altre parti europee e non solo. Comunque il mio compito era quello di parlare e poi scrivere solo Schlern, e dirò solo due o tre cose magari che possono essere riferite a questo tema, ma che poi si collegano forse anche alla tematica più generale del tema del confine, della funzione di queste riviste, e magari nel fatto soprattutto che è per certi versi come dire il Big Bang di queste riviste, che era non per l'archivio, no, ma che era comunque la guerra. Sono riviste nate nella guerra come principio, vuole dire, no? Cioè la guerra, la lotta, la prima guerra mondiale, efficacemente descritta da Hobsbawm come la catastrofe primordiale del Novecento, ha sprigionato riviste, no? Ha sprigionato anche tentativi di creare nuove identità o di riflettere quelli entrati in crisi, come è il caso nostrano. E perciò, in un'era, diciamo, pre-internet, molto pre-internet, queste riviste in qualche modo fungevano come un blog, non un blog di storici, di intellettuali schierati in grandissima parte. E cioè avevano questa funzione di una casella postale, anche di comunicazione, di creare un archivio, e perciò il nome è molto diciamo è molto cioè il fatto che si trovi in tantissimi, questo il titolo dell'archivio è naturalmente non è curioso, no? Perché si credevano essere, e lo erano, archivi del loro tempo, ma per noi sono anche degli archivi oggi, no? Sono un archivio a doppio senso, no? E in questo una miniera di materiale anche non ordinato per certi versi, no? E, poi per tornare al caso o al tema dello Schlern che io ho studiato, mi sono reso conto che è utile appunto vedere non solo il luogo di produzione che era in questo caso Bolzano o la provincia di Bolzano, ma anche soprattutto per lo Schlern era importantissimo guardare a Innsbruck, per esempio, no? Questo non era possibile in modo approfondito all'interno del convegno, ma comunque ho tentato almeno nel saggio di delineare anche questa bipartizione fra una rivista qui esistente e tutto un retroterra accademico universitario che si trovava a Innsbruck, e c'è una spartizione dei lavori ovviamente anche fortissima, una rivista forse più docile anche dovuta all'oppressione fascista ovviamente, che presentava una Heimatgeschichte, una storia regionale, però portata avanti dagli stessi attori anche a Innsbruck con dei volumi molto più impegnativi, no? Se poi pensiamo ai singoli nomi, allo Stolz, al Wolf, no? Cioè questo penso è un principio di costruzione che vale per un po' tutte le riviste. Forse è un peccato che qui abbiamo potuto solo vedere gli esempi, questo forse è una leggera asimmetria del volume, non è una critica, no? Ma è una simmetria che vediamo naturalmente l'area friulana, veneta, trentina, soprattutto l'area di Bolzano, ma manca ovviamente tutto il settore italo-francese, no? Che sarebbe stato molto, o con la Svizzera, che sicuramente il Ticino, queste parti avrebbero forse questo poi un convegno non può, una pubblicazione non può toccare tutti questi temi, ma un punto di partenza anche in quel senso, no? Che diciamo la situazione di confine, ma confine in senso anche di metafora, potrebbe essere proprio un filo rosso che ricollega poi e ci fa vedere come questa regione, o la regione friulana, la regione piemontese, Savoiarda, la regione Ticina, abbiano avuto delle evoluzioni molto peculiari. Naturalmente ci sono specifiche situazioni, ma poi c'è un tema generale, una tematica che potrebbe magari sfociare anche in un altro incontro ancora. Io mi fermo qui, magari poi c'è anche la possibilità di, perché poi tu tira anche delle somme e non vorrei andare oltre troppo in questo discorso forse un po' individuale su una singola rivista, ma forse c'è poi anche il modo di parlarne in un dialogo con voi, col pubblico. Ringrazio. Io partirei proprio da... Io naturalmente ho letto i saggi, non ho partecipato al convegno, come diceva Mastrelli, una voce che vede appunto dall'esterno, no? Partirei proprio dal saggio di Obermeier, perché nel suo saggio, fra il prima e il dopo, il Big Bang della guerra che lui ha richiamato, col cambio di confine, si viene a creare questa situazione in cui le riviste storiche che nascono tra Bolzano e Trento dopo il Big Bang, cioè Studi Trentini di Scienze Storiche e Der Schlern, tutte e due vengono giustamente definite da Obermeier come delle riviste, diciamo così, con una in cui potremmo definire che la spinta propulsiva si va esaurendo molto rapidamente nel tempo. Uno dice non è vero, perché durano 30 anni, nel caso di Der Schlern fino al 38, Studi Trentini addirittura è tuttora una rivista viva e vegeta, però questo esaurirsi della spinta propulsiva, per quanto riguarda la situazione post-1918, ha una sua giustificazione, nel senso che chiaramente la diaspora tirolese dopo il 1919 fa sì che l'elemento di vitalità è il rapporto con, diciamo così, il punto di riferimento che diventa Innsbruck, come era stato prima del 18 Firenze, come giustamente Ciappelli mette ben in evidenza nel suo saggio, nel suo ampio saggio, era stato Firenze per i Trentini, ma il confine allora era ad Ala. Allora, ecco che noi vediamo che dal saggio di Obermaier viene fuori molto chiaramente che queste due riviste, soprattutto quella, diciamo così, trentina, perde quella spinta propulsiva che avevano avuto le riviste nel periodo precedente, fino al 18, perché la pluralità di riviste, la vivacità culturale, l'impegno nel campo della scienza, pensiamo a Tridentum, pensiamo alla Procultura, pensiamo, e questa effervescenza di produzione culturale, che poi viene fuori anche dal saggio di Carpi, molto evidentemente legata alla voce, no? Come giustamente Ciappelli richiamava, perché la voce è prima ancora croce con la critica, e poi subito dopo ancora, diciamo così, la posizione di Prezzolini comunque decisiva, no? Nel senso che Prezzolini è quello che mette in moto, appunto, Pasini scrive il saggio su Trieste, Mussolini il Trentino venduto da un socialista, lo stesso Alfredo De Gasperi diventa appunto un autore della, della collana della voce, cioè Prezzolini è quello che mette in moto tutte le energie nuove, direbbe Gobetti, no? Le energie nuove di una regione di confine che allora era di confine il Trentino, no? Quando dopo il 18 il confine cambia, diventa il Brennero, la spinta propulsiva culturale del Trentino si esaurisce. Di fatto si esaurisce nel senso che non solo per la fascistizzazione della rivista, ma per il fatto che tutti i protagonisti della fase precedente che avevano vissuto l'irredentismo, come diciamo, la palingenesi sociale, l'unione all'Italia, il completamento del processo risorgimentale, aveva delle aspettative fortissime che soprattutto i vociani fanno emergere. La delusione è profondissima. Il trentinismo nasce dal fatto che poi il Trentino si trova schiacciato in una realtà nazionale nella quale non solo l'ha battuta Trento Redenta al 40%, perché nel 18 il cambio tra la corona e la lira avviene in quelle proporzioni, no? Ma di fatto tutta la spinta, diciamo così, fortemente tipicamente intellettuale, che aveva mosso tutte quelle energie che Gianni ha richiamato, Ciappelli, tutta la seconda metà dell'Ottocento, è una straordinaria, diciamo così, capacità di essere sui problemi culturali, e la centrale di riferimento è Firenze, no? Sia per i triestini che per i trentini, giustamente, lo è. Per il Sud Tirolo diventa Innsbruck dopo il 18, la centrale. E quando Cardallago scrive nelle sue riviste l'atteggiamento, appunto oggi Michele Nicoletti in parte e Silvano Zuccaro hanno ripreso di Cardallago più interessanti anche riflessioni sul versante anche storico-politico, no? La critica alla dittatura mussoliniana, ma la partecipazione attiva al dibattito culturale che avviene tra Innsbruck e la comunità di lingua tedesca. Allora, lo spartiacque della Prima Guerra Mondiale è decisivo, nel senso che da questi sai l'utilità straordinaria di questo lavoro è che mette in evidenza fortissima questo iato della Prima Guerra Mondiale, no? Io quando a suo tempo avevo appunto curato sull'Università Italiana in Austria il carteggio fra tutti gli intellettuali trentini che volevano i corsi paralleli e poi cercavano di raggiungere l'obiettivo dell'Università Trieste, è interessantissimo vedere come nel 18, 19, 20, quando poi tutto finisce, dalle lettere di Andrea Galante, lo storico del concilio che si occupa di mantenere i contatti col Trentino e con il suo allievo Francesco Menestrina, o lo stesso Pacchioni, scrivono che avevano partecipato attivamente a tutta la fase precedente di vivacissimo impegno culturale per l'università, per le battaglie per la cultura, per mantenere il rapporto fra la scienza vivo, il rapporto fra scienza e cultura, no? Il discorso sul dibattito sulla scienza, sulla modernità è fortissimo. Nelle ultime lettere del loro carteggio c'è una delusione profonda. Entrano in Italia, ma i posti universitari non ci sono più, le possibilità di trovare una collocazione non ci sono. Menestrina è costretto a rinunciare, cosa che invece una brillante carriera accademica gli aveva prospettato nella fase precedente, austriaca. È straordinario vedere come tutti questi intellettuali si trovano poi dal 19, 20, 21, viene fuori proprio dalle ultime lettere del carteggio, come in una situazione di fortissima frustrazione. Questo ci spiega anche che al di là della dittatura fascista, poi in realtà nel ventennio successivo, essendosi esaurita questa spinta, c'è proprio un fatto del venir meno di un lievito che era stato fortemente presente nel periodo. E questo dagli atti di questo convegno viene fuori con molta chiarezza. Lo dice anche, naturalmente viene fuori molto bene anche dal saggio appunto sul litorale adriatico di Salimbeni, no? Lui molto giustamente critica le posizioni tarde di Ferdinando Pasini, no? Nel periodo finale sulla porta orientale. La porta orientale proprio quasi viene messo proprio un timbro sul fatto che di cultura lì non ce n'è più. Cioè, di fatto è un nazionalismo talmente esasperato, antislavo, anticroato, anti-Mitteleuropa, anti tutto quello che nel periodo precedente il 18 erano state le motivazioni profonde dell'impegno e della pluralità dell'approccio, no? Nel confronto anche delle diverse culture. Questo, diciamo così, viene fuori molto chiaramente da tutti i saggi, no? In modo magari anche forse non esplicito, ma almeno io così l'ho inteso nel leggerli, no? Mi è sembrato un contributo veramente molto molto interessante e importante. Tra l'altro per quanto riguarda la matrice culturale, che è quella della voce di Prezzolini, Carpi lo dice molto chiaramente. Naturalmente Prezzolini è il primo che poi si accorge che tutto questo lievito culturale che lui aveva posto in essere sulla scia della scuola crociana e della critica, negli anni del primo ventennio del secolo, dopo la guerra, dopo il Big Bang, lui capisce, poi dice, lui fa nascere la società degli apoti, quelli che non la bevono, dice noi ci ritiriamo dal dibattito politico, dice Prezzolini, deludendo tutti i suoi allievi, Gobetti per primo, no? I quali si sentono in qualche modo anche orfani, no? Perché appunto il più grande intellettuale di questa fase di effervescenza culturale che era stato Prezzolini è quello che ritira i remi in barca, nel senso che noi siamo, tra l'altro questa società degli apoti è tornata su internet, la vedo navigare molto in questo periodo su quelli che non la bevono, no? Rispetto alla situazione politica attuale. È interessante questo fatto che ci siano siti che si richiamano, no, alla vecchia associazione prezzoliniana, no? No, per dire che appunto siamo in un contesto, questo, del cambiamento di confine, che è un cambiamento di scenari talmente radicale che non permette di fare un continuismo. Infatti giustamente adesso, da quello che dice giustamente Obermeier, questa storia di studi trentini e da Schellen bisogna farla. Nel senso che dalla storia comparata di queste due riviste post-18, secondo me viene fuori, è un'ipotesi di ricerca, ma viene fuori una divaricazione profondissima, proprio perché è cambiato il contesto di quella che diventa una minoranza culturalmente, quindi compressa, e quindi esercita, ma non solo De Chelem, ma pensavo appunto a Carlo Dallago come intellettuale, tutto quello che gira intorno alle riviste letterarie, no? Tirolesi e nord-tirolesi e austriache, che mantengono vivo una vivacità intellettuale molto forte, una critica fortissima alle due dittature, fra l'altro non solo al fascismo ma anche al nazismo. Da parte di Carlo Dallago, ancora nel 1944, c'è una durissima posizione contro il nazismo, oltre ad aver preso posizione in modo drastico nel 1929 contro Mussolini e il fascismo italiano. Questa vivacità deriva dal fatto che diventa confine questa zona, no? Dell'Alto Adige. Mentre lo resta, per il Trentino cambia, non è più confine. D'altronde, Mastrelli giustamente nel suo saggio, quando richiama Mazzini, giustamente lo richiama con molta precisione e riporta il testo di Mazzini che dice: nostro, se mai terra italiana fu nostra, è il Trentino. Chiuso il discorso, cioè il Trentino è italiano, no? Non è più provincia di confine. E non ha più nulla da dire dal punto di vista del dibattito, no? Sto esagerando, sto estremizzando i concetti, ma per capirsi, no? E questo spiega appunto quel venir meno di quella spinta propulsiva, no? Naturalmente Mastrelli giustamente richiama l'importanza che aveva avuto nella fase pre-14 l'archivio di Tolomei, perché insomma il fatto che noi abbiamo chiamato archivio Trentino la nostra rivista, siccome giustamente Mastrelli dice la denominazione di archivio per un periodico appare desueta, dice lui, no? È talmente desueta che noi negli anni 90 l'abbiamo ripresa, no? Archivio come rivista del museo. Nel senso che diventa archivio Trentino, torna ad essere nell'ambito della regione, perché Mastrelli dice ma allora qua, questa regione, questo sguardo d'insieme c'è o non c'è? L'Alto Adige, lui dice, è sottratto per gran parte questa visione d'insieme. Eh no, cioè noi dobbiamo ricostruire la regione, e non a caso, con Christoph von Hartung qui presente e gli altri collaboratori, abbiamo poi l'anno scorso, subito dopo il convegno che si è tenuto, pubblicato il primo volume di questa storia regionale sulla politica e le istituzioni, che mette a confronto l'approccio da parte italiana, tedesca e ladina di questa dimensione regionale, recuperando la dimensione regionale, no? Questo è uscito 7-8 mesi fa, ma per dire che l'esortazione di Mastrelli deve essere tenuta presente, non deve cadere questa tensione regionale, che non è più intesa, ovviamente, preso atto che il confine è cambiato, che c'è l'Europa, che non ci sono più gli stati, perché di fatto questa è la prospettiva, non ci dobbiamo più spaventare se parliamo di una regione, no? Questo è il concetto. E mi sembra che gli atti di questo convegno, complessivamente, ci aiutino proprio ad andare in questa direzione, che poi oggi Geschichte und Region, in questo nuovo clima, e Archivio Trentino, cioè la rivista che non a caso nasce appunto nel Museo Storico, che poi diciamo, di cui io sono stato appunto pro tempore direttore per una ventina d'anni, la tradizione battistiana ritrova dentro questa dimensione di dialogo regionale una sua ragion d'essere, no? Che il vecchio Museo del Risorgimento non poteva più avere, ovviamente, proprio per l'esaurirsi di quella spinta che in qualche modo la storia aveva segnato con un confine nuovo, no? Che non era più quello di Ala, no? Per intendersi. E per quanto riguarda, ho concluso, la questione relativa all'archivio per l'Alto Adige e alla figura di Tolomei, insomma, io mi sono dato da fare, perché sono andato su al Museo della Rivendicazione dell'Alto Adige, ho recuperato, grazie alla disponibilità della famiglia Bianini, le carte, ho tolto da quelle vetrine ormai polverosissime, abbandonate da decenni, i documenti prima che i topi se li mangiassero tutti, no? Ho provveduto a riordinare l'archivio e ricollocarlo nella sua destinazione, pregando la sovrintendenza archivistica di Bolzano di prendere atto che esiste un archivio storico Ettore Tolomei, che è bene che questo archivio abbia una notificazione, che venga notificato. Naturalmente è come un elefante che entra in una cristalleria, perché pensare di dire all'archivio Bolzano, allora Nessing, l'allora direttore Nessing era quasi svenuto quando gli ho mandato la lettera, no? È come appunto entrare con un elefante in una cristalleria, chiedere alla comunità sudtirolese di lingua tedesca di notificare l'importanza storica delle carte di Ettore Tolomei. D'altronde, e questo l'abbiamo detto proprio nel convegno del 98 in cui anche Mastrelli ha collaborato, io avevo ben messo in evidenza che, ritornando a Bartolomeo Malfatti, che poi è la matrice da cui tutto parte, il fatto che le carte di Tolomei nel 43 i nazisti se le portano via a Innsbruck e rimangono ancora nel referat S nascoste e non accessibili, e dove io sono sicuro, da tutte le ricerche fatte, che la toponomastica di Bartolomeo Malfatti, che Cesare Battisti nel 14 avrebbe voluto pubblicare a Vienna e che, scoppiando la guerra, non si poteva più pubblicare, finita in mano appunto a Mori a Firenze, poi dalla Nazionale prestata, non più restituita, utilizzata da Ettore Tolomei per le lettere A e B della toponomastica, è sicuramente finita insieme alle carte che sono state sequestrate dai nazisti e che oggi sono clandestine ad Innsbruck. Qual è la nemesi storica di questo? Che la toponomastica del Malfatti, pur mantenendo vero il discorso geografico dello spartiacque alpino, perché questa è una concezione universale di tutti nell'Ottocento, non nega la toponomastica di origine tedesca per le regioni di confine. Ne fa, anzi, per il Trentino stesso e per quanto riguarda le isole linguistiche del Trentino, una rigorosa ricostruzione toponomastica, come Bartolomeo Malfatti, allievo di Ritter, formatosi alla scuola tedesca, era in grado di fare. Quindi la nemesi sta nel fatto che quella toponomastica di Malfatti va a incontro alla richiesta delle minoranze tedesche di vedere rispettate la loro lingua e la loro cultura. E il fatto che siano invece, diciamo così, sequestrate, impedisce di procedere in questo lavoro di comparazione importante, no? Con questo, ecco, io insomma, comunque ho molto apprezzato questo lavoro, perché credo che sia questa la strada verso la quale, grazie alla certosina attività di Giovanni Ciappelli si è potuto concludere. Tutti. Grazie. Di solito lasciamo un po' di spazio, se ci sono delle domande, sì, domande o delle curiosità. Sono Mastrelli. Ma l'archivio per Alto Adige è confluito a Firenze perché Carlo Battisti, diciamo, fisicamente, personalmente, insomma, l'unico insomma gestore, diciamo, dell'archivio negli anni 20 se l'è portati lì, o c'è stata questa scelta che lei ha evocato di scindere un po' lo sfondo? No, devo dire, cioè, non ho capito come è andata, è andata semplicemente così, che Battisti era professore all'Università di Firenze e tuttora è all'Università di Firenze, ma la sede legale dell'istituto è alla Dante Alighieri di Roma, questo è lo statuto nostro. E a Firenze si lavora, è lì la redazione, come in gran parte andò a finire perché è entrato il Tolomei in crisi, ovviamente con la guerra, vero? E da principio era Bolzano, Gleno, Lorenza, insomma, era destinato a stare proprio qui, no? Nella zona di Bolzano, però dopo, con la guerra, il lavoro e il peso e la continuazione non poteva più essere assicurato da nessun altro se non da Battisti, il quale dalla mattina alla sera, non avendo famiglia, avendo sì un nipote come lei, appunto, ma parente lontano, sì. No, originario praticamente lo stesso. Si è laureato a Firenze, quindi mi ricordo benissimo. E quindi è la redazione, una redazione che si mantiene o si è mantenuta. Io poi sono fiorentino, quindi non sono né un trentino né un bolzanino, anzi dico che questa disgrazia mi doveva capitare di occuparmi di queste cose, perché avrei voluto fare piuttosto l'indoeuropeista e romanista, che riesco ugualmente a fare, no? Ma in altro modo, però c'è questa scommessa di mantenere in vita questa presenza di trentini e di triestini, perché comunque siamo andate poi le cose del Prezzolini, questi sono gli aspetti utilitaristici della vita di ciascuno, però quella vita vissuta da quegli studenti, e non sono pochi, Ciappelli, perché gliel'avevo fatti vedere io, ci sono negli annuari dell'Istituto Superiore, sono riportati anno per anno gli elenchi completi di tutti gli studenti iscritti con gli esami anche che facevano. Quindi vi posso giurare che la memoria di tutto quello che veniva fatto giorno per giorno è mantenuta, se uno ha la pazienza di guardare queste carte. Ecco, e se si pensa che lì in via della Sapienza, che era la via di fianco alla piazza San Marco dove c'è l'università e si chiamava via della Sapienza perché c'era l'università, è diventata via Cesare Battisti, e davanti all'università di Firenze c'è in alto ancora la testa di Cesare Battisti, che poi se si svolta e se si entra dentro c'è una lapide e non legge nessuno, ma con tutti i nomi di tutti i caduti, i morti, triestini e trentini che sono stati a Firenze. È che Firenze è una città che non si vanta di aver mai avuto nessuno. Dante Alighieri stesso, voi capite benissimo. È firma. Ecco, Firenze accoglie, nazione non moribus. Ecco, Firenze è una città dove si raccolgono le persone che vogliono stare insieme e che hanno dei problemi di vita per stare insieme, e lì devo dire che non si dà molto peso a Trento e a Trieste, ma in realtà la cultura fiorentina all'istituto era la cultura che proveniva da Trieste, era un Morpurgo, era la parte ebraica, si potrebbe dire, era stato l'Ascoli, che a Firenze non è mai venuto, ma era lui il ladino, è lui che ha scritto ed è tuttora il trattato più importante per la comprensione del ladino, e sono stati Morpurgo, e poi hanno legato sì intanto nella università, l'istituto superiore era una cosa straordinaria, è proprio un qualche cosa di indescrivibile di quello che facevano, c'erano veramente degli uomini incredibili, incredibili, per bravura e capacità e il legame con la Biblioteca Nazionale, perché l'ha ricordato anche gli altri Ciappelli, sono tutte cose che devono essere tenute insieme, zitti zitti, senza che i fiorentini se ne accorgessero, ma anche i fiorentini poi, anche se se ne accorgono, fanno finta di non aver visto nulla, capito? Perché questa è l'atmosfera di Firenze, ciascuno fa i suoi fatti e si litiga tra di noi, nelle nostre combriccole si fa così. Quindi è un po' una scommessa. Il fatto è che appunto tutto quanto era fatto a Firenze, poi il Battisti aveva la comodità non solo dell'università, ma dell'Istituto Geografico Italiano, perché gran parte del lavoro è un lavoro fatto per la gestione delle carte militari dell'Istituto Geografico Militare Italiano. Allora ricordiamo le cose. Battisti fu fatto prigioniero in Galizia, andò a finire in Siberia, dove a Tomsk venne scoperto e insegnò filologia romanza in quella università da prigioniero, ve l'immaginate. Poi, scoppiata la rivoluzione, con l'ingenuità che l'ha sempre caratterizzato, è scivolato giù in questo pagliaio di bianchi e di rossi ed è arrivato fino all'Italia velocemente, perché in Austria figurava come traditore. Lo figurava come traditore. Secondo Battisti. E allora gli fu dato, è questo quello che spiega Gorizia, gli fu dato la direzione, era libero docente, bibliotecario poi alla Università di Vienna, e gli fu riconosciuto appunto questa competenza e diventò il direttore di Gorizia. Non ebbe mai Gorizia, nemmeno con l'Austria, un direttore così bravo, perché riuscì a fondare la rivista Studi Goriziani, che tuttora è una rivista importante. Gorizia se no non avrebbe quasi niente, capito? Ed è una bellissima cosa. Da Gorizia poi il Parodi, che era un ligure, quindi non sono gli amichetti, non sono le amicizie, non sono i politichetti di oggi quelli che hanno fatto questo mondo, erano persone le quali avevano una testa particolare. Vorrei sapere anch'io che testa avessero, però era una testa intelligente che oggi non riesco a trovare da nessuna parte o da poche parti. Comunque, professor Mastrelli, adesso rispetto a Umberto Di di De Sica, oggi abbiamo un fiorentino che lavora all'Università di Trento, che si chiama Giovanni Ciappelli. Possiamo rovesciare i termini, certo, poi anche lui finirà, dovrà andare a prendere perché l'università è messa male, un po' all'elemosina, anche lui sarà costretto alla fine della carriera, però intanto, rovesciando i termini, abbiamo anche un fiorentino a Trento che potrebbe... No. E sì, infatti vede, l'archivio. Vede però come per i 100 anni dell'archivio si è fatto tesoro del fiorentino di Trento, quindi cerchiamo di essere sempre attenti al meglio vero di quel che c'è nel mondo, se è possibile, ed è già parecchio. Seduto di pochi euro, sì, è nel medioevo. Bene. Grazie. Ecco. Questo ruolo. Questo ruolo. Grazie. Bene, mi sembra che... Pensavo fosse caduto un buon pezzo. Allora io probabilmente sono giù con salutiamo il professor Mastrelli, Vincenzo e Nettissimo, sentito molto contento, speriamo di rimanere in contatto perché si può, perché qui a Bolzano appunto io stesso ho timore di sollecitare soci dell'istituto per, no, sapendo com'è difficile lì, bisognerebbe venire lì e starci in giornate intere. Sì, sì, se io potessi avere il sogno, ma io lo mando, ma me lo mando, o se no vediamo, io so qui, no, me lo scrivo, no, no, aspetti, no, no, ciò qui, poi basta scrivere all'istituto, aspetti, questo è il telefono dell'istituto, infatti, in via Battisti, questa è una vecchia carta che non vale più niente. Va bene, grazie. Sì, ho lavorato con lui, ma